Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e della domenica con la stampa periodica italiana e straniera, come sapete. Cominciamo questa mattina da un mensile, e si tratta di Wired edizione italiana. Sapete che Wired è diffuso, è nato negli Stati Uniti, esiste già da tempo una edizione italiana, sempre con spunti molto interessanti. La copertina è dedicata a una particolare iniziativa di Wired, che ha deciso di cercare 150 anni dopo l'Unità d'Italia i nuovi 1000. Il 17 di questo mese andremo appunto a celebrare il 150enario della nostra nazione, e Wired ha deciso appunto di andare a individuare innovatori, scienziati, ricercatori, sognatori per unire di nuovo il paese e trasformarlo in un posto dove il migliore arriva primo. Questa è una frase che ha detto Saviano, l'ha detta però citando Obama, perché appunto nell'intervista poi che ospita a Saviano questo numero di Wired c'è questa citazione di Obama. Saviano dice: Obama ha detto una cosa che è ovvia e nello stesso tempo è devastante, voglio un mondo dove il migliore arrivi per primo. Ecco, una delle iniziative, uno degli obiettivi di questa iniziativa di Wired è proprio cercare di individuare dei migliori, dei personaggi che possono in qualche modo guidare il paese. Per corredare però questo spirito unitario della rivista di questo mese, Wired propone diversi spunti interessanti. Ad esempio, nella rubrica dei grandi numeri, che è curata da Alberto Forni, si fa un paragone di 150 anni in tasca agli italiani, cioè i nostri soldi 150 anni fa e oggi. Dal 1861 si scopre così che il nostro debito pubblico è decisamente impazzito, indubbiamente le spese erano inferiori al momento della nascita della nostra nazione e di quanto non siano ora. Lo stipendio di un operaio vale quanto un televisore, comprare casa è proibitivo, però i francobolli costano meno, se qualcuno ancora scrivesse chi osa correttamente Forni, perché effettivamente l'utilizzo dei francobolli risulta un po' in diminuzione dato il diffondersi della messaggeria elettronica. Qualche numero che trovate in questa pagina di Wired: ad esempio, il debito pubblico dello Stato nel 1861 espresso in lire era di 2,5 miliardi, sarebbero 11.247 milioni di euro rivalutati al 2010. Il debito attuale è 1.869 miliardi di euro, quindi diciamo che c'è stata una certa esplosione, ripeto, poi comprensibile, spiegabile anche con l'aumento delle esigenze rispetto allo Stato al momento dell'unità e un secolo e mezzo dopo. Ci sono gli altri paragoni, sempre attualizzando i valori, quindi cercando di tradurre quelli che potevano essere i valori di anni precedenti in valori attuali. Ad esempio, quanti notti può passare al Grand Hotel di Rimini un operaio con il suo stipendio? Nel 1970 poteva passare 40 notti, nel 2010 le notti si sono drasticamente ridotte, sono diventate 6. In compenso ci sono altri beni che invece hanno visto una decisa diminuzione. Quanti stipendi occorrono a un operaio per acquistare un televisore? Se lo acquistava nel 1955 ci volevano 4 mesi, nel 2010 è bastato meno di un mese di stipendio per acquistare un televisore. Molto interessante anche una tabella comparata che mette a confronto i chili di carne di manzo e di pane che può comprare sempre l'operaio. Io credo che qui il valore non è espresso puntualmente, ma si intenda un valore di uno stipendio medio di un operaio. Allora si scopre che con il suo stipendio mensile nel 1946 un operaio poteva permettersi 222 kg di pane. Il picco massimo di potere d'acquisto è stato nel 1990 con 733 kg, e poi invece è drasticamente sceso con il nuovo millennio a 375 nel 2000 2366 nel 2010. Questo poi conferma, diciamo, anche alcuni avvisi, alcuni avvertimenti che vengono da personaggi anche molto importanti. Lo stesso governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha detto di recente: attenzione, ci sono dei salari d'ingresso che sono fermi non a qualche anno fa, ma addirittura a un valore di una trentina d'anni fa. E questo tipo di comparazioni in qualche modo dà un'ulteriore conferma, una conferma molto tangibile, molto puntuale su questo avviso di portata più generale. Ultima comparazione che vi propongo nel passaggio dalla lira all'euro, come tutti purtroppo abbiamo sperimentato, ci sono stati anche dei rincari. Il titolo infatti di questo blocco di numeri è: caro euro, ma quanto ci costi? Ad esempio, il pedaggio autostradale Milano-Napoli, se lo calcolavate nel 65, corrispondeva, se lo avessimo espresso in euro, a 28 euro, al costo attuale 48 euro, quindi un rincaro molto molto sensibile. Così il biglietto ferroviario tra Milano e Roma, naturalmente i servizi qui sono comparabili solo relativamente, perché dovremmo fare anche una comparazione con la velocità e la qualità del servizio, che è decisamente mutata. Però nel 1970 si pagavano 6.900 lire, sarebbero stati rivalutati, tradotti in euro, 58 euro, adesso il costo può essere di 89 euro per un Frecciarossa, se prendete l'Intercity è invece inferiore, siamo a 49,50 euro. Restiamo un istante su Wired, perché molte celebrazioni della Unità d'Italia sono chiaramente dedicate al passato, e questo tipo di elaborazione che vi ho proposto è una di quelle che troviamo, che possiamo trovare anche sui settimanali. Però hanno chiesto anche a Wired di fare una proiezione a 10 anni, e chiedersi: ma come saremo tra 10 anni, invece, posto che abbiamo visto come siamo diventati in 150? Di qui al 2020. Allora, come sarà l'Italia? Ci sono tutta una serie di statistiche, hanno utilizzato i riferimenti indicati dal Censis, ovviamente la popolazione è una delle grandezze che vengono più prese in esame. Da una cartina d'Italia deformata secondo le proiezioni, quindi le regioni che più si ingrossano sono quelle che avranno un saldo maggiore attivo di popolazione, quelle che più dimagriscono sono quelle che invece avranno numeri in negativo. Cresceranno nei prossimi 10 anni il Veneto dell'8,5%, la Lombardia, la Toscana del 6%, l'Emilia Romagna del 9%. Andranno invece a diminuire le regioni meridionali, questa è la proiezione, con la Puglia che dovrebbe calare dell'1,8%, la Campania dell'1,1%, la Basilicata del 3,7%. Questa è la proiezione fatta a oggi. Migliorerà la speranza di vita ulteriormente, questo abbiamo motivo di ritenere, perché la speranza di vita alla nascita nel 2010 è di 79 anni, nel 2020 riteniamo, questo segnala Wired, che sarà di 82 anni per i maschi. Scusate, questi sono i dati dei maschi, quindi 79 anni di speranza di vita alla nascita attualmente, nel 2020 diventeranno 82, per le donne un po' di più, come già succede adesso, 84,3 anni, quindi qualcosa di più di 84 anni nel 2010, diventeranno 87 anni e mezzo nel 2020. Questi sono alcuni dei numeri che trovate su Wired. Le tabelle sono tantissime, riguardano la possibile evoluzione che potrebbe riguardare i giovani, la salute, la comunità, quindi come si svilupperanno le città, e poi anche naturalmente gli italiani e la rete. Lasciamo il futuro, le proiezioni sul futuro, torniamo invece sul presente, la segnalazione di un problema anche qui nazionale ma molto attuale, l'insonnia. L'insonnia è il tema di un articolo di Antonella Trentin su Donna Moderna di questa settimana, e pare che un terzo di noi dorma male. Il popolo degli insonni, dice Antonella Trentin, è in pericolosa crescita. Il 31,2% degli italiani dorme male, ha continui risvegli notturni e difficoltà a riaddormentarsi almeno per 3 volte la settimana. A misurare questo dato è stata non una docente italiana, ma una docente alla Stanford University che ha studiato un campione di 22.700 individui da 15 anni in poi in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna e in Gran Bretagna. Risulta che ci sono 6 milioni di noi, praticamente 6 milioni di italiani con l'insonnia cronica. Naturalmente poi ogni insonnia si declina in modi diversi, c'è chi si gira e si rigira nel letto, c'è chi si mette a lavorare, ci sono i privati del sonno, cioè quelli che restano svegli perché non riescono a staccare la spina. Questo sarebbe il popolo più in ascesa, quindi non riuscendo a staccarsi dal lavoro, dalle proprie occupazioni, allora si mettono a navigare su internet, a scrivere, a finire progetti in sospeso e così via. Naturalmente questo che sembra un mondo meraviglioso in realtà è invece una questione di grande difficoltà per chi ha bisogno invece di dormire e non ci riesce, e questo è il tema appunto che viene affrontato dalla Trentin Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando di un problema che pare in decisa crescita in Italia e non solo in Italia: l'insonnia. L'articolo da cui traggo queste frasi che vado a leggervi è di Antonella Trentin, compare su Donna Moderna di questa settimana, si intitola L'Italia sedesta, però il verso dell'inno di Mameli sta a indicare non una situazione appunto guerriera e risorgimentale, bensì il disagio di chi proprio non riesce a dormire. Devo dire che poi nell'articolo Antonella Trentin riesce a rendere molto bene l'ambivalenza che tutti noi abbiamo nei confronti degli insonni, perché ci sono delle persone che riescono a dormire meno ore e comunque ad avere lucidità, mantenere lucidità, addirittura non hanno bisogno di dormire, e si raccontano anche appunto i casi di personaggi storici che non avevano necessità di dormire molte ore per notte. Ci sono invece molti che subiscono questa impossibilità a prendere sonno, impossibilità a riposarsi, che poi si riflette sulle attività di tutti i giorni. L'articolo contiene infatti anche diversi testimoni delle due modalità. Molto interessante la testimonianza di Evelina Cristillin, che è presidente dello Stabile di Torino, del Teatro Stabile di Torino. Prima ancora però è stata presidente del comitato promotore delle Olimpiadi a Torino, è docente, ma prima ancora è stata campionessa di sci e di golf. È una persona che soffre di insonnia o comunque di una riduzione del sonno, perché spiega: io chiudo gli occhi 5 ore a notte, però non ne vado fiera. In passato le mie veglie notturne mi hanno costretto a una vita parallela, a dormire da sola, a essere vigile mentre gli altri sognavano. Quando da ragazzo dovevo fare una gara di sci, le poche ore di sonno diventavano 0 e nessuna atleta voleva condividere la stanza con me. Oggi, dice, se proprio non riesco ad addormentarmi, mi affido agli elenchi, una sorta di versione moderna del contare le pecore, quindi l'appello delle compagne delle elementari, le formazioni della Juventus, gli allievi bocciati all'università. Questo spero anche per gli allievi, che non sia un elenco così lungo e quindi sia praticato solo raramente dalla professoressa Cristillin. Però ripeto, ci sono anche delle considerazioni molto serie che si possono fare su questo disturbo. Luigi Ferini Strambi, che dirige il centro del sonno all'ospedale San Raffaele di Milano, spiega proprio in queste pagine di Donna Moderna che dormire fa bene, inibisce la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, che poi influisce sulla pressione. Quindi chi non chiude occhio risulta poi a maggior rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari, e poi anche di altri malanni, insomma, che vi risparmio, ma vengono descritti più in dettaglio su Donna Moderna. Poi dovete sapere che dormire induce l'organismo a produrre la leptina, che blocca lo stimolo della fame. Quindi se non si dorme viene invece prodotta la grelina, che attiva lo stimolo della fame e quindi induce a mangiare e a ingrassare. Questo il resoconto, insomma, delle questioni cliniche, delle questioni mediche che possono condizionare chi soffre di insonnia. E in effetti questa sofferenza sembra essere collegata a una sorta di difficoltà a staccare la spina in molti casi, come si dice, cioè difficoltà a sganciarsi dal proprio lavoro. Allargando un po' il discorso, su Newsweek di questa settimana c'è un po' la difficoltà a prendere delle decisioni. Perché? Perché siamo oberati di informazioni, così come siamo molto magari oberati di richieste dal punto di vista lavorativo, magari richieste che ci facciamo pure da soli, traguardi che ci diamo da soli e poi ci ci portano questo stress, anche appunto che si può scaricare sul sonno, siamo oberati di informazioni. Questo non è un problema che è nato oggi, che è nato con internet, che è nato con i social network. È un problema che, come ricorda lo stesso articolo che è di Sharon Bigley su Newsweek di questa settimana, già veniva percepito addirittura nel XVII secolo. Leibniz si lamentava che c'era una massa di libri enorme e questa massa continuava a crescere e non era più possibile tenergli testa, insomma diventava sempre più difficile poter stare in qualche modo aggiornati e al passo. Però quello che si sta notando, diciamo, nei giorni nostri è che l'eccesso di informazioni alla fine inibisce le decisioni, cioè non aiuta a decidere. Ricorda una vicenda che si era verificata ancora nel secolo scorso sulla metropolitana di Tokyo, sapete, una metropolitana affollatissima, dove avevano deciso tra gli anni 80 e gli anni 90 di fornire ai passeggeri una quantità enorme di informazioni, quindi gli dicevano che temperatura c'era all'esterno, quali erano le previsioni meteo, naturalmente davano informazioni sulla fermata e altro ancora. A un certo punto ci fu una sorta di sollevazione dei passeggeri che erano stufi di dover sopportare tutta questa quantità di dati, della quale probabilmente non sapevano poi bene che farsene. Ecco, è un po' quello che ci sta succedendo, perché siamo molto più esposti di prima a informazioni, abbiamo una facilità di accesso alle informazioni, però poi non è detto che tutto quello che possiamo sapere di un dato argomento sia così determinante per decidere. Anzi, gli studi che vengono citati da Sharon Bigley, che sono stati condotti ad esempio da Angelica Di Moca, che dirige il Centro delle Decisioni Neurali alla Temple University, dimostrano che succede esattamente il contrario. Quando le informazioni superano una certa quantità c'è una sorta di blocco e si finisce per decidere in modo sostanzialmente emotivo, come si dice talvolta, di pancia, cioè si prende un po' quasi per reazione un distacco da quello che siamo venuti a sapere e si finisce per decidere d'istinto. Ad esempio, una cosa che ci può riguardare: dove posso informarmi? Naturalmente posso vedere la versione digitale, posso vedere dei blog, posso comprare un giornale, posso ascoltare la radio, ho insomma una grande quantità di scelte possibili. Il meglio sarebbe, o sembrerebbe essere, mettere un po' tutto insieme e quindi poter avere una grande disponibilità, però il problema è che poi di tutte queste informazioni che recepiamo davvero finiamo per non sapere che farcene, oppure cominciamo ad avere altri tipi di dubbi. Ci fidiamo, scrive ad esempio Newsweek, di quello che leggiamo sui giornali, ci fidiamo di quello che abbiamo trovato su internet, quanto ci condizionano eventuali idee politiche nostre e idee politiche che presumiamo in chi ci informa, e poi voglio essere informato di ogni singola cosa oppure mi basta uno sguardo complessivo. Alla fine la miglior strategia viene indicata come leggersi le top story, cioè una sorta di notizie in breve che vengono ospitate sul New York Times, vengono ospitate anche su molti giornali italiani, potremmo dire sentire un giornale radio più o meno, ecco l'effetto che potrebbe essere la best strategy, la miglior strategia, e poi lasciare che i bloggers, cioè che l'informazione un po' sparsa che potete trovare su internet, completi magari qua e là alcuni buchi, insomma una sorta di riduzione drastica per poter meglio gestire, per evitare appunto il blocco delle informazioni. E allora, i tempi cambiano, i problemi sull'eccesso di informazioni si acuiscono con la disponibilità di nuovi mezzi. Tra le cose che cambiano, proprio su Newsweek, una pagina più leggera sui nuovi santi patroni, perché con la nascita di nuovi mezzi ci sono anche nuovi santi patroni, o meglio, ci sono dei santi patroni che poi ampliano la loro sfera di competenza. Si ricorda ad esempio in questa pagina che Santa Chiara d'Assisi è la patrona della televisione, però è anche la patrona dei telefoni, quindi delle telefonate. C'è il santo patrono della pubblicità, è San Bernardino, era un teologo molto abile, un grande oratore e aveva una quantità enorme di fedeli che seguivano i suoi sermoni, e quindi San Bernardino per questo poi è stato prescelto come il santo patrono della pubblicità. Il santo patrono di internet è è San Isidoro di Siviglia. Questo vi volevo dire. A proposito di internet, vi ricordo che ogni giovedì trovate con il Sole 24 Ore il nostro volume dedicato proprio alle novità legate a internet e alla digitalizzazione del nostro lavoro. Questa settimana è in vendita il volume dedicato alla email marketing, cioè fare marketing, tenere contatti con i clienti tramite le email. E con questa segnalazione si conclude la puntata di oggi. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie ad Anita Panizza. Magazine 24 ritorna domani mattina.